Buonasera. Chi è? Chi è là? Chi è là? Chi è là? Oh, ti è uscita la voce finalmente, Antonio. Ciao Franco. Ciao, perché molti, oramai la moda è quella del... Nessuno c'ha più voce. No, io c'ho la voce io. La voglia già funziona. Brutta, però ce l'ha. Non ci posso fare, c'ho la voce brutta. Adesso vado a Sanremo, canto e poi cambio voce. No, no, magari di lì, siccome è caratteristica, vince anche qualcosa. Mi metto il trucavoce e mi cambio la voce, mi faccio la voce affeminata. E allora vinci tutto, se poi ti metti anche mezzo nudo, allora veramente spopoli, credo. Dai, fresco, tu mi metto mezzo nudo. Tipo i cosi, va, come si chiamano quelli... adesso non mi vengo, che sono sempre tutti nudi, quei ragazzini lì. Ah, quelli che suonavano prima in strada. Quando ci hanno fatto carriera, si mettono nudi, capito? I soldi fanno male a me. Iaia, perché non sbagliano magari usando coca. Se non sono... Loro dicono siamo fuori di testa, ma se sono veramente fuori di testa non mettono qualcosa da parte, pure è successo, lo sappiamo com'è. Oggi c'è, domani no, perché i soldi ne sta guadagnando tantissimi, veramente tanti. Però poi bisogna vedere quanto dura. Sì, stavi già stava facendo. E parecchi anche. Poi bisogna vedere se non ci scendono i vasi, lo sai che. Quello che, per come si, anzi come si vestono, non è che puoi stare a fare serate ogni due giorni, no, finché crulli, quindi sei per forza destinato a non usare quella roba bianca, come fa Giovanotti, capito? Giovanotti l'ha detto, io sul palco, cioè per fare serate così nelle spiagge, non reggerei, dice ho bisogno di quella roba lì, se no sono fregato. Sì, poi però li frega la salute, dunque scende il coccolone e sono fregati. Sì, vabbè, Vasco ha cominciato così. Poi, anzi, faceva il zucchero, usava invece, beveva whisky, prima di fare un concerto. Vabbè, ma quello viene anche un livello un po' più alto. E anche lui c'ha la sua età comunque adesso. Ah beh, quello sì. C'ha la sua età, quindi ha voglia. Può anche andare in pensione fra 10 anni. Vabbè, che le piace pure, cioè non è quando sono artisti, non gli frega niente andare in pensione, sono degli appassionati, quindi non mollano mai, nemmeno quando stiamo male. È così. Ma non c'è più nessuno, a parte questa specie di propagazione qua remata. Nulla, tutto chiuso. No, non ho sentito nessuno oggi. L'ho acceso oggi l'apparecchio, era un po' di tempo che non lo stavo usando perché stavo facendo dei lavori e quindi non c'avevo neanche tempo di usarlo. Uscivo la mattina alle 8, rientravo la sera verso le 10:30, 11. Cenavo e poi direttamente a letto. Io ho finito poco fa perché sto facendo le riparazioni, però non niente, sono da stamattina battagliando, chissà che è successo, c'ho dei cavi che non stanno conducendo bene, o sono le formiche che si hanno mangiato tutto, o è qualche stoppo, ma più probabile le formiche, perché mi è già capitato. Anche quelle adesso sono mossi a mangiare cavi elettrici, te immagini? Sì, i topi più che altro si mangiano i cavi. Mi piacciono tutti i tipi di cavi, anche i cosi, i conigli. Quindi, specialmente per i giduci dottori ci si mangiano. Sale che rame, che è troppo grosso quello. Però il tavolante la TV è quello che se l'ha mangiato. Beh, qua più che altro ci sono tantissime formiche di tutti i generi, grandi, piccole, microscopiche, con le scavatori, senza scavatori, qua ti fanno la tortrada, se guardi per terra vedi queste strisce, dove passano, tagliano tutto, si fanno la strada a quattro corsie, se le vedi tutte in fila, giorno, notte, camminando velocemente, in un senso o nell'altro, sono ordinate però. Quindi se trovano anche un cavo nel loro percorso, subito lo rosicchiano piano piano. È un macello, e poi questo è il cavo fino, capito? Sono cavi di rete che portano i segnali alla varie telecamere. E quindi una rottura. Sì, devi controllare uno a uno. Dai pozzetti tirare fuori il cavo e poi rimetterci di nuovo dentro, quindi devi controllare quale che ci hanno mangiato. Il discorso è quello lì. Poi magari si può trovare pieno d'acqua o iaia. Essendo cavo di a terra c'è poco da fare. C'è un cavidotto di oltre 50 metri. Quindi è chiaro che l'acqua va, si sono bloccate anche gli sfiati l'altra volta e c'era l'acqua che ha allagato tutto, quindi un casotto, adesso guardo, è una sola, poi non funziona, diciamo che è tutto rindondato, è tridondato, ma anche proprio cavo segato, sembra fatto apposta, ma faticaccia non ti dico, sudore a gogo, io e poi non ne voglio neanche mangiare, e vabbè, cose che capita. Sì, ne ho passato cavi questa settimana, nei pozzetti altri cambiati più che altro, perché dove c'erano i cappuccetti, tutti rugginosi, poi i cavi sono diventati neri dall'umidità, abbiamo dovuto cambiare tutti i cavi, per arrivare fino alla casa, capito, dal contattore. Quindi figurati tu. Ma qua il problema, nonostante i cavi siano di quelli, cioè i tubi siano molto grossi, tipo cavidotto, però riescono a incasinarsi anche così, quindi sì, e anche la qualità, quindi anche migliori, però è sempre quella la ragione, no? Se fanno pagare molto cari, però poi al dunque se incontra acqua non sono come dicono. Figurati, il mese scorso ho preso una pompa senza guardare al prezzo, eccetera, garantita, senza piegature, una pompa di irrigazione dell'acqua normale, questa non si piega, questa qua, neanche tolta dalla cosa, è iniziata a fare pieghe che secondo quello che mi tocca buttarcela già via. Proprio sono cose oramai di roba buona, è difficile trovarne. Lo so. Da qui come ne ho visto tante di quelle pompe per acqua, per portare l'acqua nel mezzo giardino, poi fare innaffiare tutto il terreno, eccetera, eccetera. Ogni tanto fanno la cosa nuova, devi stare sempre all'erta, non sai che con la pressione dell'acqua si piega, roba del genere. Ma il problema è non tanto spendere 10 un po', 15 in più, ma è che non è punti a certa roba che è anche più cara, poi trovi la fregatura e quindi non sai più a che santo rivolgerti, perché se poi alla fine fanno tutti questo scherzetto qua della qualità che non c'è, essere fregato. Poi con queste temperature, anche i tubi di irrigazione, eccetera, noi li abbiamo trovati bruciati, quelli che c'erano. Infatti li abbiamo sostituiti, ma questi durano ancora di meno. Erano quelli addirittura che avevano la rete interna. Sono diventati ma proprio bruciati, sono diventati rigidi e non si possono più usare neanche. Se hanno trovato le traversine delle non traversine, quelle del legno, no? Come si chiama? Quelle della ferrovia. Tutte piegate, dal calore, figurati, hanno dovuto sostituire tutto. Figurati tu, con questo calore qui, questa noia ha fatto un sacco di danno, ha fatto. Ma tu figurati che sto svettiando con motore del cancello, perché si è talmente dilatato che adesso tutto il peso grava sulla pulizia, e siccome il peso grava sulla pulizia, cosa è successo? A forza di vibrare ha sfasciato tutti i cardini che sono nel cemento lì, e per di più adesso ha spaccato anche il cemento, quindi vedete, un casino. L'unica è metterci una cosa lì, una filettata per qualche metro sottoterra e buono tessicchio. E poi sopra dove c'è il cemento metterci il coso chimico, un po' di quella roba chimica in modo da saldarlo, perché non esci più, ogni giorno è un lavoro continuo. Che lavoro ce lo facciamo noi? A chiamare qualcuno? Guai, ti manda in fallimento. Ti manda in fallimento, sì. Ui. Speriamo che a fine settembre, anche prima, faccia un po' di fresco, si può stare con questi 37, 38 gradi, oggi mi si sta un pochettino bene, perché ha rinfrescato leggermente, adesso durerà due o tre giorni, poi comincia a far più caldo di prima, se ci andiamo l'inverno così, già la pigliamo buona già. Quello è il problema, che si tocca iniziare i lavori, poi adesso si è notato, sta anche diminuendo la luce, no? Quindi si è fregato doppiamente. Il caldo è lo stesso, la luce di meno, quindi sei costretto a lavorare ancora di meno, c'è poche ore a disposizione. Io mi sono trattenuto stamane, che erano credo fino alle 9:30-10, ma era una cosa impossibile. Poi nel pomeriggio ho iniziato un po' più tardi, intorno alle 5, però non fa proprio. Nonostante ti muovi, ci sia anche un pochino d'ombra, però quando devi fare collegamenti non fa, è un casotto. E infatti se si rompono le antenne, se si rompe qualcosa l'antenna, eccetera, ciccia se ne muove lì, io non ci salgo a 10 metri sul tubo rovente a fare le acrobazie. No, ma che mazzo, basta qua quando sono salito io. L'anno scorso che cominciato ad esserci il caldo, sono salito sopra al tetto che c'è lì la cementeria, ho fatto la mia. Non riuscivo a salire, ho dovuto togliermi la maglietta, appoggiare la maglietta sopra la lamiera, perché sennò mi scottavo le mani. A quello gli ho detto, guardami, l'antenna è a posto, non mi chiami più, perché io stai tranquillo che non ci vengo. Ma ce la faccio a usarmi detto con questa lamiera, non esiste, gli ho detto. E poi si scivola pure, non sono volato, perché le scarpe in gomma non aderiscono con quel calore lì. Oh. Ma neanche per scherzo, poi non puoi programmare più niente perché non fa, quindi è un casotto. Oggi per di più ha fatto finta di fare un po' di pioggia, sporca, ha sistemato tutte le macchine. Quello pericoloso però erano fulmini, sentivano stamattina tante scariche, ogni tanto un tuono. Meno male, è passato un po' d'istante. Quando ho visto il meteo stamattina, i fumi arrivando dalla parte alta, ho preso e staccato immediatamente il PL. Perché di solito quando arriva il temporale di Alghero è pericoloso, è molto più pericoloso di quello che arriva dalla parte per il polo Torres, perché io mi ricordo sempre quando arrivava dalla parte di Alghero, prendeva, girava dalla parte dove sei tu, nella 131, poi prendeva e saliva via Milano, e dove scaricava il fulmine, non c'era avversa. Dopo lì che prendeva e si spostava verso Osino. Così è un po'. È un casino. Marca rottura. No, non lo fare. Stop. Maledetta. C'è Alexa che vuole fare sempre le cose a Cabusuglio. Tu le dici una cosa e lei subito attacca bottone. Nel telefonino si può agganciare, quando ogni tanto mi risponde, cosa mi risponde a me? Google, che serve qualcosa, e io rispondo sempre, vai là, fanculo, e rispondo. Oppure quando stai parlando a volte mi scrive, stai cercando di trasmettere, e ti stava cercando, nessuno, si diventa da solo, come se il telefono ti ascolta in pratica. Infatti, è un'intelligenza artificiale che deve imparare ancora tante cose, prende certe cantonate a volte. Sì, ma se la conto con l'altro cartello, con l'altro telefono non me lo fa, però con l'altro cartello sì, me lo fa spesso. Parte da solo e mi risponde da solo, senza neanche toccarlo, nulla. Anche con blocco tastiera, è come se il telefonino fosse, si mettesse in ascolto da solo, capito? Ma l'Alcatel esiste ancora, sì. Io ho l'Alcatel, quello con due telecamere, l'ho comprato alla cosa, ancora l'anno scorso. Quindi figurati, già esistono, già. L'unica cosa che non può cambiare è la batteria, perché c'è quel sistema lì. Non puoi avere gli stilli per poter aprire, è un casino. Quindi in pratica è un telefono da getta quello, in pratica. Quando si imballa la batteria prendi il telefono e ce lo butti nel cassonetto. Non è come l'LG che prendi con l'unghia, sollevi i coperchioli dietro e cambi la batteria quando vuoi. Oppure puoi risultare tramite la batteria, invece con la cartella devi spegnere il telefono, se dovesse andare il tipo puoi accenderlo. Ma infatti quella già è stata una bella cavolata che hanno combinato, perché prima almeno aprendo il coperchietto e prendendo la batteria sapevi com'era la situazione, se era gonfia, se andava bene eccetera, perché pochi lo sanno, ma le batterie a litio sono a scadenza, piano piano si assottiglia la parte isolante della batteria tra catodo e anodo. E cosa succede? Che se entra in contatto il catodo e l'anodo, anche se scarica a causa proprio del litio o della composizione chimica, tende ad esplodere, a incendiarsi. A me è capitato, il telefono staccato, proprio tranquillo, pacifico di lì, all'improvviso si è gonfiato, oppa! Una bomba a mano, è dato subito fuoco, meno male c'era gente subito a spegnere, però vedi la cavolata, se uno invece lo poteva aprire, controllare, vedere, no? Era in tempo ancora a metterci il rimedio, così adesso non sai se queste batterie sono buone, se si stanno gonfiando, hanno fatto una grossa minchiata. Sì, l'hanno fatta per fare, cioè due erano quel tanto lì e tanti anni quel telefono, due o tre anni penso che lui non di più, quindi una volta che il telefono poi non carica più, non puoi mai capirlo, quindi prendici e butti tutto a un certo punto, tutto fatto con scopo. Le leggi invece ogni estate mi fa quel difetto a me, scalda la batteria, scalda da sola in certi periodi, allora devi prendere, staccare la scheda, staccare la sim e staccare la batteria e resettare. Se fai così la batteria sarà normale come prima, rimane sempre fredda. Se invece non fai così ti trovi in mezzo ai pantaloni questa cosa bollente, una cosa allucinante, è come se avessi la pila accesa. Ma guarda, io so che più di uno ci ha rimesso gli occhi, oppure ci ha rimesso anche la faccia, ed è anche morto, perché come quasi tutti, no, avevano l'abitudine di mettere il telefono vicino al comodino. Questo era molto vicino, una volta esploso, ho combinato un disastro, e poi mette immediatamente fuoco, è come avere un lanciafiamme, proprio perché è altamente infiammabile. Quindi è molto pericoloso, tant'è vero che se guardi quando ordini qualcosa da Amazon, eccetera, quelle lì sono scatole segnate, no? Hanno proprio il simbolo della batteria, attenzione, perché credo che non possano andare per via aerea. Guarda, i tablet hanno quel tipo di batteria a lizio. Me l'aveva portato a me. Sembrava un coso, un salvagente sembrava, toccavi da una parte e lì ti passava dall'altra, proprio gonfia, e non c'era nessun verso, neanche la vendevano, non so l'altro, ho detto fai una cosa, prenditi il tablet, lo vedevo c'era la mazzetta, ho detto tu hai un colpo, tanto costa intorno agli 40-50 euro, ho detto lo compri nuovo, e fai prima. Oddio, darci una botta sulla batteria non è consigliabile, perché sempre per lo stesso discorso metteresti in contatto anodo e catodo e gli elementi chimici relativi è come togliere la sicura la bomba a mano, ti fate il mantello in testa, capito? Stanno lavorando oggi, ci sono una ditta che c'è il PMR, stanno lavorando con PMR, stanno portando il sabbia, cemento, coso, di sacchetti, di tutto. Ah, detto iniziale, staccato la batteria, io ho proprio staccato la batteria e ci ho buttato nel coso, nel cassone della mondezza. Poi gli ho detto, questo è il tablet, te lo avevo chiuso, gli ho detto, ti ho messo il tappo, prendi la mazzetta e gli ho detto gli altri di sopra, ma poi che finisci e te lo compri nuovo, gli ho detto. Bisogna stare attenti, bisogna stare allerta. Infatti l'avevo portato i tablet, ma con la faccia, dico. Non è cambio i costi, vai, mandalo alla vita, alla spedizione, ti arrangi e ti fai cambiare la batteria da loro. Io non devo uscire di testa ordinati la batteria e poi passare, come si chiama, vai, se prendi il tablet e te lo compri di nuovo. Infatti non conviene, a me molti me lo chiedono, ma so che te io per fare, no, niente, arrangiati, non ne faccio i tuoi lavori, perché poi se non va in porto sono ogni 5 minuti rompendoti le palle, quindi li faccio solo per me quei lavori e basta. Se vanno male figlio ce lo butto, se va bene ciccia, non lo tengo, però a farlo per gli altri, guarda, è una rottura di scatole sempre. Infatti, no, io non ho preso il tablet, a parte che non ho wifi a casa, quindi lo te in saccuccia in pratica, no, Marco lo può sotto di la marocchetta, gli mettono una SIM card dentro. E allora si può anche discutere. Ma quello devi forse comprarlo, se per caso trovi il posto di lavoro te lo chiedono. Ti prenditi un tablet e gli sapete usare il computer, perché adesso vanno tutti così per questi lavori, anche lì alla come si chiama, la anche con il bidello, capito? Quindi è così, ma siccome io non me ne posso nulla, non sto lavorando, quindi se la può prendere in culo il tablet e il wifi. Ma sei già in pensione? No, ancora no, ho fatto la domanda, sto aspettando che mi arrivi la risposta per fare la visita. E poi vediamo cosa si inventano a vedere questa volta. Ma tu hai oltre 65 anni, giusto? 59 ne ho. Sì, io pensavo che fossi più grande, a 59 che paravai. Io pensavo che andavi a 67 anni, come tutti, oramai, grazie a quel coccodrillo che si mette a piangere. Quindi per adesso di quelle cose così in uscita ti danno 4 soldi, sono talmente basse che puoi andare a mangiare alla carità. Vabbè, carità sono carità, se almeno me la danno, no? Non devo stare a rompermi le balle con qualcosa, con questa cartina. Ma senti, ogni giorno ce n'è una nuova, quella che dicevi di no, l'altro adesso ha cambiato idea perché lo vuole anche lui, prima ha fatto un sacco di casino, togliamo tutti due cittadinanza, quindi a un certo punto no, ce la faccio a settembre a vivere con l'angoscia. Spero solo che mi diano quello che mi devono dare e poi basta. Se lascio le tue cittadinanze, bene, se no ci sarà qualche altra cosa di alternativa, come fanno tutti. Ma guarda, io ti dico che una persona che ha il posto fisso, diciamo con all'incirca 35-38 anni di servizio, se va col contributivo adesso sei proprio fortunata, c'è all'incirca 800 euro al mese, di più, neanche 1000 euro raggiunge, 800 euro al mese, dopo 38 anni di lavoro. Non conviene più andare in pensione dopo aver lavorato 35-40 anni, intanto non è che ti danno questo, più ne versi e meno ne hai a un certo punto. Capito? Quindi a me spero solo che da 67% di vari programmi devi almeno un'ottantina e io sono a posto. Poi già c'è il resto per fare altre domande, almeno c'è la possibilità di avere un posto fisso. Capito? Con il bidello come entro immediatamente, o con il bidello come altra cosa. Il portavello. No, se hai superato i 50 anni non ti prende nessuno oramai, non conviene, soprattutto dal punto di vista contributivo, a parte che andresti ugualmente a prendere delle cifre proprio basse, quindi preferiscono prendere già i ragazzi, i giovani. Sì, vabbè, già vogliamo far lavorare i giovani. Chi non può lavorare gli lasciano il reddito, capito? Non glielo toccano più. Poi vabbè, ogni tanto si inventa una, il reddito universale, il reddito di base, e tutto va a vedere cosa faranno, che fine faremo pure, capito? Con questa guerra che c'è, questi aumenti dei prezzi, stiamo andando male. Se entra che sicuramente vince le elezioni, cioè la destra, il giorno dopo può viaggiare alle di cittadinanza, l'hanno già detto. Quindi questi ne ha bisogno, sarà una vera tragedia. Quindi è così. L'altro dice che aumenta le pensioni a 1000 euro, così tempo neanche un anno siamo tutti col culo a terra. Ah, che non è aumentare le pensioni a 1000 euro, Berlusconi, vai. Poi se la vogliono fare così, ma non fare le truffe che in Italia fanno, a tutti quanti vanno a capo e fanno la domanda di pensione, se ne vanno tutti in pensione, specialmente i medici e gli infermieri, per la questione del Covid, già se li hanno curati bene l'altra volta, adesso sono fatti i furbi, sono fatti gli infermieri, ah, ce la faccio a morire di Covid per 1200 euro. Grazie, ma avevo detto che dovevo assumere non so quanti e non abbiamo né medici né infermieri, quindi figurati tu, di soldi non ce ne sono, quindi i primi sono fatti furbi, me ne vado in pensione oppure prendo, cambio lavoro oppure me ne vado fuori. Ma quello lo dicono anche perché vogliamo fare i tubi, ma c'è molta gente che il cervello non si accende, poi quando arriva il coso dell'Inps allora si mettono a piangere perché neanche la bolletta della luce riescono a pagare, capito? Ti ho detto che già con i contributi le pensioni sono bassissime, tra le più basse d'Europa. Figurati se se ne fanno prima dei 67 anni, cosa succede? Io ho visto tanta gente che se l'ha giocata, ma è rovinata praticamente, no, non riesce a campare. Quindi sono cose a cui bisogna pensare bene, uno lascia un posto fisso, che poi non è gli infermieri proprio, 1200 euro non è più nessuno, sono tutti dell'ordine dei 1400, 1500, anche 1600, quindi quello che te l'ha detto è perché evidentemente non fa niente la mattina alla sera. Il lavoro che stiamo facendo a pronto soccorso di soffrire, guarda, sono tutti sudati, come i muratori, insomma, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, li vestiva l'altra volta, gli detto, ma è sempre avanti e indietro, io ho detto, scusi, ma quando è che fate entrare, detto, questa persona, è più di un'ora a voce, gli ho detto, e deve aspettare, che te l'ho rispettato, sono passate 4 ore, mi, cosa deve stare qui, tutta la notte una persona seduta a che cosa? Fatelo entrare, se non avete ricoverato, se non fate quello che dovete fare. Sì, Antone, già lo sai di lì come funziona. Poi io, molta gente neanche ci va, figurati. A meno che non sia proprio sofferente di dolori, al massimo. Tanto lo sai già, no? Mediamente ci rimani 6, 7, 8 ore, fino all'indomani mattina, buttato su una sedia, cose allucinanti. Ogni 5 minuti ne arriva uno che sta morendo, quindi in codice rosso. Qualcuno che si sbatte agli alberi, qualche altro che ne cade dal poggiolo, insomma, di tutto di più. Quando me l'ho recato io, sono andato alle 2:30, tutti con codice rosso, codice arancione, codice giallo, io ero l'unico codice bianco, cosa diavolo è verde, mi sento. Beh, l'ha fatto entrare alle 4 del mattino, ho detto, la prossima volta sa cosa faccio, gli ho detto. A posto di venire alle 2 vengo alle 4 del mattino, a me non c'è manco un cane, gli ho detto. E così me lo aspetto 5 minuti e mi controllate. L'importante è che non sia un sabato, però è un sabato né una domenica, perché se ti capita il sabato o la domenica, quelle lì sono le ore proprio in cui arrivini tutti, perché si sbattono gli alberi, si troncano solo il collo tornando in macchina, fanno le ore piccole, capito? e quindi ti fregano lo stesso. Sì, adesso oggi mi è una bella giornata, oggi tutti vanno in discoteca, stanotte è vero, vedrai la scena, quindi uno deve essere accorto da lì. O se prenderanno il pullman per diventare assassini, se no, perché taxi non ce ne sono a portare questi sventurati che vanno a rompere le balle che agli altri. Prima si vanno lì, si fanno come la cacca, poi fino alle 5 rimangono addormentati lì in discoteca, poi alle 5 metri non sono messo ancora a tutti. Prendono che un taxi vada lì, riprenda e ce ne porta a casa, hanno sbagliato oggi. Poi si mettono d'accordo con qualche autista di pullman, tutti assieme pagano, l'autista rimane lì, aspetta fino alle 5 e poi ce li porta a questo, i datuati e ce li smolla tutti lì. Vabbè, è anche vero che i taxi a quell'ora costano carissimi. Io ho preso che erano le 3:30 al mattino e per fare 8 chilometri praticamente 21 euro, 21 o 25 euro, una cosa del genere. E sono molto cari la notte. Lo so che sono cari la notte. C'è un amico che ha fatto la notte, l'altra notte, figurati. Prima ha fatto dei lavori a casa sua tutto il giorno e poi la notte è andato a fare il notturno fino alle 6 del mattino. Poi alle 8 è venuto a prendere a me e alle 10:30, 11 siamo andati via. Dopodiché mi ha detto, io sto andando a dormire, anzi, ci sentiamo stasera, mi ha detto, è meglio che vai a dormire, e ho già perdere stasera. State a casa, gli ho detto, a uscire non ti conviene, gli ho detto, sei stanco morto, gli ho detto, se non ci bevi doppio in macchina. È un lavoro per gente che sta sveglia, capito? Vabbè, Antonè, ti devo lasciare, dai, sono già le 9:20, le 9, via. Sono già le 19:21, quindi è 22 adesso, quindi è l'ora di andare un po' a prendere un po' di fresco. Ci sentiamo, Antonè, stammi bene. Ehi, ciao, ci sentiamo, stammi bene anche tu. Alle prossime, ciao. Ciao, ciao. Cazzo, adesso, ma chi è? Che è, avanti! del gatto. Chaito. Está vivo, não pode puxar. Ah, de pau. Vou pegar o novo aqui.